Lex fidelis hermatorum, gratulemur in honore, de quo marci successore, gaudet ab mille regio. Huius sansus fortunatus, qui espere fortunatus, mancum illa coronatus, passione gentem culpa avere, redes fide fumere,